Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata, come già il nostro GR24 vi ha annunciato, particolare, nel senso che oggi non faremo la poco invidiabile classifica degli sprechi della pubblica amministrazione, né avremo una startup e in aggiunta apriamo le telefonate, quindi il numero per le telefonate adesso ve lo darò, nel senso che potete intervenire. Qual è il motivo? La situazione. L'obiettivo di fondo è, lo dico subito, evitare il panico. E per evitare il panico la cosa migliore nella vita non è mettere la testa sotto la sabbia o la polvere sotto il tappeto, spiegare le cose come stanno e restare nel perimetro anche dei fatti. Perché lo diciamo? Perché l'avvitamento, per essere buoni, che sta prendendo questa vicenda delle quattro banche salvate, per modo di dire, nel senso che hanno salvato le banche ma non gli azionisti e né gli obbligazionisti subordinati, sta assumendo i contorni di uno scontro istituzionale sul doppio fronte Banca d'Italia, governo italiano, e oggi invito a leggere anche l'intervista del numero 2 su Corriere della Sera, la posizione di Renzi, ascolteremo adesso le parole del Presidente del Consiglio quando chiede una riforma del sistema bancario. È ovvio che uno immagina e pensa anche alla riforma dell'autorità di vigilanza, quindi Banca d'Italia e Consob, e poi uno scontro istituzionale Roma-Bruxelles, Banca d'Italia, Via Nazionale-Bruxelles, nel senso che Bruxelles poco fa ha detto, fonti da Bruxelles dicono attenzione, il cosiddetto fondo ristoro noi non ve lo faremo passare, nel senso che non ci sono gli elementi per considerarlo un fondo umanitario. Arriviamo anche da questo. Arriveremo anche a questo. Per quello che riguarda la borsa e gli altri temi, cercheremo di trattarli. La cosa più importante ci sembra oggettivamente, però, far capire a tutti, perché si sta generando anche un effetto in cui obiettivamente i risparmiatori dicono: beh, ma allora le mie obbligazioni bancarie cosa ne devo fare? Qui c'è un sistema bancario che, come in altri paesi, si finanzia anche attraverso le obbligazioni. Noi non possiamo dire banca sì, banca no, ma è chiaro che diciamo, non possiamo immaginare che salteranno le banche italiane, le più grandi banche italiane nel futuro, perché se dovessimo immaginare una cosa del genere dovremmo immaginare che salta per aria lo Stato italiano, avendo esse in pancia migliaia e migliaia di obbligazioni italiane. Quindi l'invito alla cautela e alla prudenza è a dire attenzione, un conto sono state quattro vicende di quattro banche locali commissariate da due anni, in cui, e poi arriveremo anche a commentare come la cosa è stata gestita malissimo ovviamente, e questa vicenda, un conto è sapere cosa succederà alla Popolare di Vicenza e Veneto Banca, altra vicenda in cui i risparmiatori sono stati quasi forzati, secondo le denunce che riceviamo, a sottoscrivere azioni a un prezzo fissato arbitrariamente da queste banche perché non erano in borsa, per poi vederselo dimezzare, a ridurre un terzo e forse ancora peggio. Altra cosa è dire che adesso le obbligazioni bancarie in generale sono pericolose in questo paese. Sarebbe sbagliato e creerebbe un effetto slavina ulteriore su banche che hanno una loro solidità, che nessuno può prevedere, a meno di non immaginare l'apocalisse, che verranno sostanzialmente, che potrebbero avere dei problemi, e qui, e che si finanziano anche attraverso le obbligazioni bancarie. Evitiamo il peggio, nel senso il danno è stato fatto maldestramente, evitiamo il peggio, daremo ordine a tutte queste cose. 349-238-6666 per i vostri sms e per whatsapp, e poi 800-24-0024 oppure 800-24-0024 per le vostre telefonate, perché vorremmo rispondere, lo dico, non alle polemiche Bruxelles, Roma, Banca d'Italia, ma a molte delle domande che ci arrivano su che cosa capiterà dal 1 gennaio, i 100.000 euro tutelati includono anche i titoli borsistici, certo che li includono anche il portafoglio titoli, però tante domande che avete, fateci queste domande. La polemica oggi mi sembra fuori luogo, ci stanno già pensando, se volete la battuta, le istituzioni massime di questo paese e di questa Europa a fare polemica ex post con i buoi già scappati dalla stalla. Su questo segnalo anche che Salva Danaio, come si chiamava una volta, Cuore Denari come si chiama adesso, quindi Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone, da lunedì inizieranno tutti i giorni ad affrontare non quello che è successo, ma quello che succederà dal 1 gennaio. e che domani il Sole 24 Ore lancia un manifesto, manifesto molto concreto, in cui, in 5 punti, in cui si chiederà di intervenire subito su alcuni elementi, a partire da questa famosissima MiFID che i risparmiatori devono sottoscrivere. Ce la siamo stampata, sono 138 pagine, ragazzi, io capisco tutto, è illeggibile, nel senso che, e poi cosa succede in banca? Che ti fanno firmare i singoli fogli, e a quel punto io voglio vedere come fai a far causa poi a queste banche se hai firmato i fogli, anche se tu non avevi capito il rischio. Allora, la prima richiesta che verrà fatta sulle 24 ore domani è quella di avere una MiFID in versione semplice, 2 pagine che dicano se lo strumento che la banca ti sta vendendo o proponendo è uno strumento a rischio, se sì quanto, e che tu sia pienamente consapevole. Il secondo aspetto è anche chiedere e avere un'esigenza deontologica, per cui se tu vedi un risparmiatore che vuole mettere tutti i suoi soldi in un'unica operazione, il risparmio di una vita, e sconsigliarlo, chiedergli una seconda verifica, una seconda dichiarazione, perché chiaramente si sta assumendo delle responsabilità enormi, così come lo si chiede ai promotori finanziari e gestori, lo si deve chiedere anche allo sportello bancario. Infine, tra i vari punti, anche però la richiesta ai risparmiatori di crearsi un minimo di cultura finanziaria, perché la giustificazione, io non lo sapevo, faccio un altro lavoro, ho capito, ma quando vai in farmacia te lo leggi il bugiardino, ti consulti con un medico, non puoi mettere i tuoi soldi in mano a una persona e dire ma io non sapevo nulla di questa cosa. Un po' di cultura finanziaria, per esempio, che le obbligazioni subordinate partecipino al rischio del capitale con dal 1 gennaio, è lì nella legge, sappiato, il che non vuol dire non comprarle. Vuol dire che se tu immagini che quella banca sia a rischio non le compri, se pensi che quella banca sia solida, è motivo per ritenere che sia solida, se no verrebbe giù l'intero paese, le puoi tranquillamente comprare perché la banca non fallirà mai. Ripeto, 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, 800-24-0024 per le telefonate. Partiamo dall'editoriale del direttore del Sole 24 Ore e anche del 24, Roberto Napoletano, che più che un editoriale è una chiosa al manifesto di domani. L'obiettivo e la filosofia molto concreta nella linea di questo gruppo che la ispira. Per favore siate seri, si eviti ai risparmiatori il balletto delle responsabilità del giorno dopo. Il problema europeo andava affrontato prima in tutte le sedi appropriate, a partire da quella politica. Il Sole 24 Ore vuole rispettare anche in questo caso la sua tradizione di concretezza e indica con questo manifesto le 5 priorità da attuare subito per evitare che la slavina della psicosi e delle paure ingiustificate metta a rischio il più grande patrimonio di questo paese, il suo risparmio. Allora sì, ci stanno scrivendo anche molti direttori di banca che è il panico allo sportello, è il motivo per cui ne parliamo. Ripeto, abbiamo fatto intere puntate sui manager, dirò di nuovo i nomi di questi ex direttori generali, ex presidenti, però in questo momento, se vogliamo essere un po' concreti, non è più il tema di che cosa è successo, ma di che cosa non deve succedere nel futuro, e non solo i fallimenti bancari, ma il panico allo sportello. Qui accanto a me c'è Oscar Giannino, che ringrazio, è rimasto praticamente in studio perché vorrei conoscere anche la sua opinione su questo. Ripeto, puntata monografica, le telefonate intanto potete prenotarvi e poi risponderemo con gli esperti del Sole 24 Ore. Allora, iniziamo questa lunga diretta per quello che riguarda lo scontro e, ripeto, l'avvitamento di questo scontro. Italian government, which is... È chiaramente il governo italiano ad avere la guida e la responsabilità di questo processo. Il governo ha discusso le sue proposte con la Commissione, in particolare con la Direzione Generale Competitività, per quel che riguarda il pacchetto per le 4 banche. E sembra che tali misure siano compatibili con la legislazione europea sugli aiuti di Stato. Sono queste le basi su cui si sta procedendo. Ci sono chiare conseguenze per i cittadini che si sono trovati in una situazione molto difficile, in cui le banche stavano vendendo prodotti non idonei senza che queste persone sapessero cosa stavano comprando. Prodotti a persone che non sapevano cosa stavano comprando. Oh, e qui c'è la dichiarazione di ieri del commissario europeo ai servizi finanziari che chiama in causa il sistema italiano nel suo complesso. Ossia, il governo ha scelto quella strada, dice l'Europa, e poi avete venduto, e qui Consob e Banca d'Italia forse qualche rumore lo sentono, avete venduto prodotti inadatti a quei risparmiatori. Oggi, così riepilogo la giornata, il Presidente del Consiglio è intervenuto e ha detto questa frase, insomma, la riforma del sistema del credito è quanto mai urgente. Non c'è dubbio che la riforma della legge elettorale, la riforma della carta costituzionale nella seconda parte, la riforma del mercato del lavoro, la riforma della pubblica amministrazione, la riforma della giustizia, l'abbassamento sistematico delle tasse e la riforma della scuola e la riforma del sistema del credito, quanto mai urgente, come abbiamo visto non soltanto nelle ultime ore, ma direi nell'ultimo anno, a partire dalla riforma delle popolari, sono 8 capitoli di un processo di cambiamento del nostro paese che non è una invenzione di questo governo. È una priorità nell'agenda politica da almeno gli ultimi 20 anni. E poi Padoan, che questa sera dovrebbe parlare alle 20 per annunciare quanto ha annunciato già ieri il ministro Boschi. Poi faremo sentire adesso del padre della Boschi, in questo momento me ne frega assolutamente poco. È chiaro che insomma 8 mesi vicepresidente, fratello che lavora in banca, forse qualcosa potevi saperlo sullo stato di salute della Popolare Etruria, visto che vive anche 1500 azioni della banca. Ma in questo momento sarebbe solo polemica. Restiamo sul concreto. La Boschi ieri annuncia un fondo ristoro. Padoan oggi conferma, alle 8 dovrebbe confermarlo, c'è un piccolo problema. Fonti europee poco fa hanno detto che non esiste, o meglio, detto non è possibile un rimborso di Stato a chi ha avuto perdite. Quello che non è possibile fare è che lo Stato paghi direttamente chi ha subito le perdite. Il fallimento non è una crisi umanitaria. E il fallimento di una banca e l'eventuale perdita non appartengono alla categoria delle crisi umanitarie. Quindi Bruxelles fa già capire che se escono soldi dello Stato dei contribuenti arriva la procedura di infrazione. A quel punto avremmo veramente la beffa massima, cioè potevi prendertela salvando le banche, te la prendi per un rimedio parziale. E ancora dice Bruxelles, la costituzione di una corte d'arbitrato per andare in aiuto agli investitori privati vittime del crack delle quattro banche è un'ottima idea. Però vogliono che Roma ufficializzi questa, quale soluzione vuole adottare. L'arbitrato, adesso vi arriveremo. Allora, fermiamoci un secondo sulle dichiarazioni, iniziamo con Oscar Giannino, poi le telefonate, il compito più arduo, per così dire, non ce l'avrà Oscar Giannino oggi, e nemmeno io per fortuna, ma ce l'avrà un collega del Sole 24 Ore, Vitaliano D'Angelio, che saluto, ciao, che lavora a Plus, domani numero speciale sulle banche, però dovrà rispondere ai dubbi sul bail-in dal 1 gennaio, ripeto, non mi fate telefonate su quello che è successo. Oscar, allora, punti fermi. Qualcosa non ha funzionato, nel senso che siamo arrivati a una riunione la domenica, un consiglio straordinario d'emergenza dei ministri, con una soluzione che per la prima volta nella storia di questo paese, e prima che scatti il 1 gennaio il bail-in, fa pagare anche gli obbligazionisti di una banca. Mai successo. E qui c'è il problema di chi si è mosso male in ritardo. Governo, Banca d'Italia. Pochi istanti fa il numero uno della Banca d'Italia, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha detto: l'impegno delle questioni legate al dissesto delle banche le consideriamo con un impegno che è massimo, facendo il meglio ed essendo sicuri di avere fatto il meglio. Quindi la Banca d'Italia dice: abbiamo fatto tutto quello che era possibile, abbiamo dato le multe, al massimo delle multe possibili, e non siamo gli unici a vigilare, c'è anche la Consob. Ok, l'intervista oggi di Rossi sul Corriere diceva appunto: non abbiamo noi il potere di gestire il risparmio, insomma, opinabile come dato, esistono altri istituti, nel caso specifico la Consob. Il governo dice, l'Europa, in questo è d'accordo anche la Banca d'Italia, ci ha bloccato la possibilità di usare il fondo di tutela dei depositi, che è un fondo privato, non dello Stato, che avrebbe permesso agli azionisti di non beccare nulla perché sono azionisti, agli obbligazionisti alla peggio di vedere trasformate queste obbligazioni in azioni, di avere comunque un rimborso. L'Europa risponde: no, non è vero. Noi vi abbiamo dato 3 possibilità. Una di queste, vi abbiamo fatto anche capire che o le facevate fallire, quindi perdevano i soldi anche i correntisti e tutti i creditori di queste banche, o usavate quello che avete usato, Oppure, se usavate il fondo dei depositi, vi avremmo aperto una procedura di infrazione, perché sulle obbligazioni subordinate non si può fare. L'obiezione che faccio io è: bene, potevi andare allo scontro con l'Europa a quel punto. Perché l'altro paradosso che mi è certo, e poi sto zitto, è che l'unico paese in Europa, uno dei pochi, che non ha chiesto un euro per salvare le sue banche, 240 miliardi li ha usati la Germania, 50 miliardi li ha usati la Spagna, 30 miliardi li ha usati l'Olanda, 28 miliardi li ha usati l'Austria. L'unico paese che non ha chiesto un euro per salvare le banche, perché i Tremonti Bond erano al 7% e lo Stato ci ha pure guadagnato, è l'unico paese in cui i risparmiatori pagano per un fallimento bancario. Qualcosa non ha funzionato. Poi arriviamo a cosa capiterà dal 1 gennaio. Oscar. Allora, io mi aspetto che costruttivamente, innanzitutto, partiamo da una cosa, la politica. Non mi interessano le polemiche, però io mi aspetto che chi in Parlamento europeo ha votato la direttiva, l'ha votata la destra, l'ha votata la sinistra, la Lega si è solo astenuta, ha il dovere morale di spiegare a tutti gli italiani perché siamo arrivati al bail-in, perché le regole sono cambiate dal 2013 in avanti, da Cipro in avanti. Perché? Perché il bail-in separa il denaro dei contribuenti, cioè il denaro pubblico, dal partecipare al processo di risoluzione, cioè il fallimento bancario, come ridare capitale a banche fallite. Lo separa e dice: non bisogna usare quello, bisogna il più possibile usare ciò che fa parte del capitale della banca. Per questo ne rispondono innanzitutto gli azionisti, e poi le diverse forme, a seconda del gradimento di lontananza dal capitale, che sono appunto l'obbligazione subordinata, poi quella ordinaria, fino ai depositanti. Peccato che i politici italiani innanzitutto questa roba non la spiegano ai loro elettori, fanno tutti a gara come se non ci fossero stati al Parlamento europeo. Secondo paradosso: chi non ha usato, come dici tu, il denaro pubblico, ha usato in percentuale di meno di un decimo della Germania, in teoria, di fronte a questa nuova norma, dovrebbe dire: è un bene. E invece sembra quasi che noi stiamo implorando di fare quello che la nuova direttiva vieta di fare. Ma al di là di questo, io stamattina ho postato due documenti, perché il vero problema è relativo innanzitutto all'accusa che ci viene dall'Europa: ma voi nelle banche rispettavate le norme sull'informativa il più possibile completa, in maniera tale che il risparmiatore ordinario, quello che si chiama retail, sapesse che cosa stava comprando e a quale rischio si esponeva? Allora, ho postato due documenti su questo. Domani ne riparleremo anche dalle 10 alle 12 al Conte della Belva, perché sarà, come si vede, un impegno che ci prendiamo tutti nel gruppo, certo, a parlare di questo tema tutti i giorni per evitare appunto che si diffonda il panico. Ho postato il documento della Consob che aggiornato a quello che dice l'autorità europea sui mercati, cioè l'ESMA, che a un certo punto poneva una domanda specifica: ma alla luce del bail-in, le subordinate bancarie sono da considerare prodotti più a rischio con una necessità di informativa rafforzata? E la risposta che dà la Consob in questo documento che è posto è: la risposta è sì, anche se molti pensano di no. La risposta è sì, ci vuole un enorme rafforzamento, cioè non basta la firma sui moduloni MiFID, ma le banche devono profilare il rischio del cliente, iniziare a chiedergli quanto alloca della sua roba su questo, guarda che parteciperai in caso di eventi straordinari purtroppo al rischio della banca, del capitale della banca, e così via. Secondo documento, questo è ancora più significativo per me, dicembre 2013, documento ABI, il report 2013-2015 dell'ABI, in cui, quando a fine dicembre 2013 è chiaro che si sta andando verso il bail-in già, c'è un paragrafo: cosa succede sul costo del funding bancario con il bail-in. E ci sono tre pagine che spiegano perché alle banche italiane, e quindi a Banca Italia, non gli piace. Perché? Attenzione, noi siamo il paese europeo in cui il canale di raccolta obbligazionaria da parte delle banche è il più alto rispetto a tutti gli altri. Se ti vedi, invito gli ascoltatori che vogliono approfondire, se vedete la relazione annuale Consob, che è quella che dà i dati su questo, vedrete che negli anni noi siamo passati dal 2009 al 2014 più o meno da 1500 miliardi l'anno di raccolta bancaria nelle diverse componenti. Nel 2009 erano più o meno 900 arrotti miliardi di depositi e c'erano 500 miliardi di obbligazioni. È un po' scesa, siamo a 1400 miliardi e qualcosa a fine 2014, con 800 miliardi e qualcosa di depositi, ma la componente di obbligazioni resta molto forte, superiore ai 300 miliardi. Questo è il totale delle obbligazioni di tutti i tipi messe dalle banche. Se andiamo a vedere quelle bancarie ristrette, seconda caratteristica italiana, noi ogni anno avevamo le banche italiane che piazzavano le proprie obbligazioni 4 volte ai retail rispetto agli investitori istituzionali, e questa proporzione è rimasta fino al 2014. Cioè, 4 volte venivano vendute ai risparmiatori retail, vuol dire noi privati, sì, rispetto ai perché un'obiezione tra correntisti, clienti, chi va a chiedere allora, un impiego, questo eccetera, è un punto eccetera. Importante, un'obiezione che viene fatta è: attenzione, le obbligazioni subordinate dovresti piazzarle o venderle o collocarle più agli istituzionali, cioè gente che ci capisce, parlo in maniera molto molto terra terra, e che sa benissimo il rischio che si prende prendendo la Popolare Etruria o la Chieti o la Ferrara o la Banca Marche, non al risparmiatore che magari ha te come banca da 30 anni, ma all'investitore, se a quello che lo fa di lavoro, che ha una propria struttura di analisi dei rischi, eccetera eccetera. E allora, questa è un po' anche la critica che fa l'Europa e questa alla è la Banca critica d'Italia. Ma la critica europea sarebbe fondata, sì, la risposta a questa domanda, va bene, ne vendevate tanti, ma chi ve le comprava, dei risparmiatori ordinari, non investitori istituzionali, sapeva qual era il rischio? Allora, a questa domanda il documento dell'ABI dicembre 2013 dice: col bail-in le subordinate bancarie non sono più da dare ai clienti retail, ma, c'è scritto, questo significherà un significativo aumento del costo del funding bancario. Perché? Del costo del finanziamento attraverso, perché ovviamente poiché cresce il coefficiente di rischio delle obbligazioni subordinate, bisogna pagare cedole più elevate per vendere. Interessi più elevati, cioè. B, c'è un costo generale perché, come evidente, il rating, cioè la solidità della banca emittente, ha una sua componente di peso di fronte al maggior rischio. Quindi nel sistema questa roba diventa più costosa. E le banche riscrivono: a cipicchia, cerchiamo di non fargli impaurire i nostri sottoscrittori, visto che sono la classe che ce ne compra di più di queste obbligazioni subordinate. Vedremo alla commissione di indagine questo, ma vado al punto che mi interessa di più dire. Secondo me, a me la prima cosa che è venuta in mente quando ho dovuto giudicare il meccanismo attraverso cui, secondo me molto affrettato, abbiamo fatto questa bad bank e le quattro good bank, mi è venuto in mente che ci sono dei casi nella storia italiana che avrebbero potuto... Faccio un esempio. Invece che dire agli obbligazionisti subordinati: ci avete rimesso tutto, e poi inventarsi il fondo umanitario, sì, le obiezioni scontate che usiamo gli aiuti di Stato e così via, a me la prima cosa che venne in mente era il caso del Nuovo Ambrosiano. Nel caso del Nuovo Ambrosiano, un dramma per quello che ha significato politicamente, con l'attacco alla banca e così via, c'erano 50.000 azionisti che ci hanno rimesso, in quel caso erano gli azionisti che ci hanno rimesso tutto. Con intelligenza, la Banca d'Italia dell'epoca cosa si inventò? Si inventò un meccanismo per il quale a loro veniva dato un warrant sugli aumenti di capitale, un warrant nominale sugli aumenti di capitale della banca una volta che fosse ripartita dopo l'intervento. Allora, la mia opinione resta che, visto che abbiamo fatto un abbattimento di valore pari a 87 punti su 100 dei crediti deteriorati di quelle quattro banche, la Banca Italia dice che l'ha imposto Bruxelles, Bruxelles dice: noi non vi abbiamo imposto niente, quindi non ci avete un pezzo di carta in cui avete fatto questo abbattimento di valore. Perché, invece di inoltrarci sulla strada accidentata di cui tu già dicevi che l'Unione Europea ci dirà un altro no, non immaginare per le decine di migliaia di azionisti subordinati un meccanismo o di aggancio con un warrant a aumenti di capitale delle banche rimesse in bonis, quando saranno rimesse in bonis, o direttamente alla percentuale di recupero, di recovery, dei crediti deteriorati data la Bank, che sicuramente nel tempo recuperano di più di quel 17, allora, molto di più. Allora, quello è un meccanismo di rientro nel capitale, capisci, che è più significativo di dire: ti do un 15% di quello che hai perso, perché se lo facciamo con l'arbitrato, io lo dico al sistema bancario e alla Banca d'Italia, l'arbitrato giudicherà tutte le volte in cui chi va all'arbitrato dirà: io sono stato circuito e raggirato perché l'informativa simmetrica che Consob da una parte e l'ABI mi diceva che avevo diritto non me l'avete data. È più sanguinoso per il sistema bancario italiano questo, allora, che inventarsi un recupero del capitale. Vedo di sintetizzare. Oscar Giannino dice: attenzione, adesso arriveremo anche alle responsabilità, non capisco i messaggi di alcuni ascoltatori, che mi scrive uno che si firma Gino Strada, non so se sia veramente Gino Strada, smettetela di essere d'accordo con il governo. Guardate che mi sembra che tutto abbiamo detto in questi giorni, tranne che siamo, voglio dire, quando hai un pasticcio del genere è chiaro che nessuno si può chiamare fuori, né il governo, a partire dal governo che ha fatto un consiglio dei ministri straordinario, ha fatto un decreto legge affrettato, sottovalutando le reazioni, sottovalutando l'effetto non solo sui i 30.000 da quanto sembra obbligazionisti subordinati delle quattro banche, ma sulle centinaia di migliaia di obbligazionisti di banche italiane che in questo momento stanno dicendo: abbiamo 70 miliardi di subordinati, scusate, che cosa facciamo delle nostre obbligazioni di Intesa, di Unicredit, del Monte dei Paschi, del Banco Popolare, della Pop Milano e vado avanti così, del Valtellina, della Sondrio, cosa facciamo? E tra l'altro il primo gennaio bisognerà dirgli che comunque anche quello, allora, o tu fai capire che c'è una soluzione E Oscar Gino dice: attenzione, se tu inizi a fare l'arbitrato, il danno che il sistema bancario pagherà sarà più alto. Meglio sarebbe utilizzare uno strumento che, adesso lo spiego male, che converte quella tua obbligazione eventualmente in azione della nuova banca, della nuova Cari Ferrara, della nuova Popolare Etruria e quanto è, in modo che tu possa avere, se la banca viene ben gestita e cresce, un ritorno su quello che era il tuo investimento più alto di quanto non avresti con l'abitato stesso. Certo, la domanda è perché cavolo non ci hanno pensato prima. Dopo il metro... Oltretutto questo significa né soldi di Stato, né chiedere alle banche sane di continuare a essere il bancomat per pagare i danni, certo, di quelle fallite. Perché io mi metto nei panni dell'amministratore delegato di Intesa, di Unicredit, e dico, non è che quelli possono essere felici, ma io so che di buttare a mare i loro utili, perché dice adesso noi diventiamo il bancomat di chi fallisce. Sono già furibonde le banche che partecipano a questa cosa, perché i soldi, come ha spiegato bene ieri Luigi Abete dai nostri microfoni, li ha messi le banche, non li ha messi il governo. Sono già furibonde, perché, ma scusami, io devo pagare la Pop Etruria o devo pagare la Banca Marche, io mi faccio i miei sacrifici, eh? Non voglio pagare. Pensa a UbiBanca, che ha visto sparire il 77% dei suoi utili dall'inizio dell'anno per la quota che ha dovuto anticipare per gli altri. È vero, perché UbiBanca è una delle banche che più ha contribuito con Intesa, Unicredit, a questo fondo. Dopo il metro, la pubblicità, e prima di iniziare, UBI è una di quelle che si deve sposare, quindi quella perdita significa una perdita di valore di fronte a qualunque nozza o sinergia che voglia celebrare. Mettiamoci in testa che abbiamo un sistema che deve vedere fusioni di BCC, fusioni di Popolari. Ma qui infatti vengo. Allora, prima di usare poi Vitaliano D'Angelo per rispondere alle domande degli ascoltatori che sono già in attesa, chiedo ancora un pochino di pazienza. Qui poi c'è il punto, cioè come è venuto in mente alla Banca d'Italia e al governo di questo paese, che ha un mese dal bail-in, e cioè dal fatto che tutti... ragazzi, lo so anch'io che il bail-in la Germania l'ha voluto dopo che si è sistemata le banche. Sono dei bravi e furbi. Prima hanno sistemato le loro banche con gli utili di Stato, poi hanno detto, adesso non lo fa più nessuno. Anche con azionisti pubblici. E anche con azionisti pubblici. Tutti furbi e bravi, ok? Noi potevamo pensarci prima, invece non abbiamo voluto chiedere nulla. Ah, invece Monti non volle chiedere un programma alla spagnola. Ci fu chi andò a chiederglielo. La Spagna fece un'altra cosa, chiese il programma EMS. E Monti rispose: il Quirinale non vuole che regalo argomenti all'opposizione. Pensandoci allora, sarebbe stato meglio per tutti, secondo me. Certo, la Spagna infatti fece un'altra cosa, chiese gli aiuti, il fondo salva banche dell'Europa, e utilizzò quei soldi per salvare le banche. Fece un'ulteriore cosa la Spagna: creò dei tribunali appositi in cui risolvere i contenziosi tra risparmiatore che aveva sottoscritto obbligazioni. Extragiudiziale, non era procedura extragiudiziale. Ho detto tribunali appositi, ma insomma mi sono espresso male. In cui il risparmiatore andava a risolvere il contenzioso. Noi non l'abbiamo fatto. Il punto è, e vorrei la risposta di Oscar dopo il metro della pubblicità: come è venuto in mente che a un mese dal bail-in, e soprattutto a un mese dal decreto che trasforma le popolari in SPA e che porterà alle fusioni di tutte le popolari di questo cavolo di paese, il fallimento anche degli obbligazionisti di queste quattro banche non avrebbe creato il panico? Cioè, l'avessi fatto 2 anni fa, potevi dire ho 2 anni di tempo prima che arrivi il bail-in e arrivi. Tu sai che dal 1 gennaio entra in vigore il bail-in, quindi i risparmi non sono più tutelati sopra i 100.000 euro nel conto corrente, inclusi i titoli azionari. Le obbligazioni subordinate partecipano al capitale di rischio, oltre che le azioni, già lo sapevamo. In più hai le fusioni tra le banche popolari, e ne vedremo delle belle, ma non sulle popolari più importanti, ma quando ci sarà la due diligence a capire quanto vale una banca, non so, vuoi che ipotizzi su Veneto Banca e Popolare di Vicenza a quanto gli abbasseranno il valore dell'azione? Ci mancava solo, capito, il panico tra gli risparmiatori. Vorrei capire l'errore politico, come secondo te ci sei arrivati, perché è un errore macchiano. Dopo il meteo. State ascoltando un programma offerto da Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Focus Economia. minuti 349-238-6666 per WhatsApp e messaggi, ne stanno arrivando male, li sto raggruppando, e poi 800-24-0024 eccezionalmente oggi per intervenire al telefono. Adesso prendiamo le telefonate di persone che sono azioniste, obbligazionisti di Popolare Etruria e quant'altro. Però Oscar Giannino, concludiamo sull'analisi: come è stato possibile arrivare a un mese, ormai neanche, da riforma del sistema bancario attraverso il bail-in, e quindi di chi pagherà le conseguenze in caso di fallimento bancario, fusione tra le popolari come previsto dalla legge che le trasforma in SPA, senza che nessuno abbia tentato di convincere l'Europa che non si poteva adottare la strada adottata, o meglio, io non ho ancora capito perché non ci hanno fatto passare il fondo depositi come aiuto di, trattandolo come aiuto di Stato quando sono soldi privati, ma voglio dire, la politica è anche questo, cioè andare a dire bene Bruxelles, guarda che noi non possiamo far passare una cosa che di fatto per la prima volta nella storia d'Italia e a un mese dal bail-in distrugge il valore anche degli obbligazionisti, perché scateniamo il panico poi in questo paese che, dove come tu ricordavi le obbligazioni bancarie sono fortissime e servono le banche per finanziarsi. Perché non si è tentata una strada? Cioè la sensazione che noi abbiamo avuto è che tu scrivi all'Europa, l'Europa ti dice hai tre possibilità, quella te la consideriamo aiuti di Stato, tu dici ok, grazie, no, vai a fare la voce dura in Europa. Che adesso c'è uno scontro in Europa su tutti i campi, dai migranti, l'infrazione sui migranti, al voto italiano sulle sanzioni della Russia, unico paese che non ha votato per il rinnovo, cioè c'è un conflitto aperto, ma non si poteva tentare una strada in più, spiegare all'Europa, trovare un meccanismo, perché guarda, è l'ultima volta, poi tanto parte il bail-in, quindi la regola europea, ma questa cosa non possiamo generare il panico nei risparmiatori, qualcosa non ha funzionato. Io ti do la risposta, che è una sola mia personale opinione, che però mi ha fatto sobbalzare due pomeriggi fa quando ho letto la deposizione in Parlamento, l'audizione in Parlamento di Barbagallo della Banca d'Italia. La Banca d'Italia lì mette per iscritto la risposta alla tua domanda, secondo me. Cioè la Banca d'Italia formalizza con una durezza inusitata, senza precedenti storici nei rapporti tra Banca d'Italia e Unione Europea da che esiste l'Europa, non è mai avvenuta una cosa simile. Mette per iscritto, primo, che la Banca d'Italia ha tentato di fare e ha fatto con tutta l'energia di cui era convinta quello che dici tu, cioè dice noi ci siamo battuti come leoni chiedendo che la BRRD, cioè il bail-in, fosse rinviato fino a dopo il 2018, c'è scritto testualmente, primo. Secondo, abbiamo chiesto, visto che non ci si dava retta, che quantomeno una volta entrato in vigore si applicasse alle nuove emissioni. Questa è una richiesta tecnicamente che non sta in piedi, perché i meccanismi di risoluzione che tu li fai col codice civile o con, certo, procedure diverse si applicano al capitale in essere, non al capitale a venire. Però la Banca d'Italia, come vedi, lì ha buttato un sasso politico. Anzi, posso dirti? Se io dovessi dedurre perché Renzi oggi inizia a farsi girare un po' le scatole, perché hanno capito che sta avvenendo una cosa che rischia di sfuggire dal controllo e ha detto qui ci vuole una riforma delle banche, senza entrare nel merito, però insomma ha fatto capire che non gli piace neanche la condizione in cui è stato posto, e perché la Banca d'Italia lì ha formalizzato, noi ci siamo battuti come leoni, la politica italiana non ci è venuta dietro nel chiedere che il bail-in fosse rinviato al 2018, e questa roba non ha precedenti, perché la Banca d'Italia mette un sasso politico enorme. Però una volta che l'hai messo di fronte all'Europa e poi affretti nelle modalità questa risoluzione delle quattro banche, viene il problema che poni tu. Io sono un po' colpito, perché francamente, per quanto dura possa essere l'incomprensione oramai certificata tra la Banca d'Italia e la Commissione Europea, e forse c'entra un po' anche la vigilanza comune della BCE sui grandi istituti italiani, certo il problema dell'effetto sistemico di un meccanismo così, io mi sento di definirlo, approssimativo come quello che è stato disegnato nell'intervento. È stato fatto in maniera approssimativa. Delle due l'una, o dobbiamo pensare che siano incompetenti in Banca d'Italia, lo sappiamo che non è così, oppure B, serve a creare una condizione tale per cui o la richiesta italiana dateci più tempo o un meccanismo diverso si può giustificare con un allarme sistemico. Allora io non me la sento di dire, butto lì delle ipotesi, ma io non mi sento di dire. Allora, poco fa ha parlato anche il governatore della Banca d'Italia Visco, di nuovo ha detto, aspetta che la riprendo, che andrà in tutte, eccolo qua, riferiremo in tutte le sedi deputate su questo, si riferirà in tutte le sedi a ciò deputate con tutta la dovizia di particolari necessarie. Concludo, cioè, perché poi ti lascio e do appuntamento comunque agli ascoltatori, ecco, domani dalle 10 alle 12. Che il governo in tieni conto che noi abbiamo il sistema dei media italiano, fino a due settimane prima del decreto legge è andato dietro a Banca Italia e all'ABI, che ci ripetevano che non solo gli obbligazionisti e naturalmente i depositanti, ma anche gli azionisti non avevano niente da temere, nemmeno delle commissariate, perché ci sarebbe stata la bad bank all'italiana, questo da inizio ottobre hanno dovuto dire no, non si può fare, e comunque saremmo intervenuti col fondo di tutela dei depositi. Domanda sul quale però, fammi dire, il no della bocciatura europea Allora, noi questo mestiere lo facciamo, l'abbiamo letta la memoria della Commissione Europea di febbraio su no a Tercas. Lì non è che c'è scritto non potete usarlo, c'è scritto perché non sia un aiuto di Stato, perché altrimenti è un no, dovete giustificarci e provarci che col fondo di tutela di garanzia dei depositi si riesce ad avere un effetto di costi-benefici migliore di un intervento di mercato fatto attorno al mercato e al prezzo del mercato. La domanda è perché a quel punto Banca Italia dice no e allora dirò che non hai detto di posso no. Far capire. Tu, da quello che ho capito, dai più responsabilità alla Banca d'Italia nella gestione di questa cosa che al governo. Va benissimo, non è nulla. Io penso che la tecnicalità di questo, come sappiamo, è stata nelle mani della Banca d'Italia. Questo non significa la risposta. Poi vedremo, la commissione d'indagine dirà, ma le banche che avevano già capito nel 2013 che quella roba non dava più data ai risparmiatori qualunque, ma agli investitori istituzionali, questo aspettava la Consob, aspettava un po' la Banca d'Italia, questo lo vedremo. Ma la tecnicalità dell'intervento mica l'ha preparata il MEF. Niente. Anzi, il MEF sta tentando di rincorrere. Il MEF, prima, il primo giorno, Padoan disse è un intervento market friendly. Queste furono le parole. Poi è diventato: c'è bisogno di un fondo umanitario. Capisci che nel frattempo il governo ha capito che non era market friendly, per così dire. Quindi tu stai descrivendo, e ne prendiamo atto, un governo, diciamo, che si è fatto prendere in contropiede, uno può dire impreparato, quello che vuoi, che ma si è fidato, tra virgolette, la Banca d'Italia. La Banca d'Italia che non ha esperito, io la metto in questo modo, tutti i mezzi possibili per vedere se si trovava un accordo con, e fornendo anche al governo delle pezze per andare a trattare con l'Unione Europea, con Bruxelles. Fatto sta, e quindi salutare e ringraziare Oscar Giannino, passiamo alla parte, diciamo, per il futuro. Fatto sta che ci ritroviamo con unico paese in Europa con un enorme rischio a non aver chiesto un euro all'Europa e avere per la prima volta i risparmiatori dell'area euro che non avranno un ritorno neanche sulle obbligazioni subordinate. Terza cosa che noi abbiamo detto: o le mettiamo a posto e diamo un quadro credibile dell'evoluzione futura, di quello che succede con le prossime commissariate, per essere chiari, certo, MPS e così via. Oppure, attenzione, il capitale straniero, i fondi di investimento che avevano le ondate di aumenti di capitale 2013-2014, hanno investito e creduto nelle banche italiane, BlackRock, iniziano a defluire in vista di, se ne vanno da un sistema che non ha regole chiare prima delle assemblee di aprile. Il fondo norvegese sovrano Norges ha già iniziato a scendere in tutte le quote, speriamo che BlackRock, cioè noi dobbiamo anche porceli questi problemi. Dilettanti allo sbaraglio. Grazie Oscar Giannino. Traffico, grazie, a domani dalle 10 alle 12 agli ascoltatori. Grazie Oscar, domani dalle 10 alle 12 800 24 00 24 e poi 349 238 666 per SMS e WhatsApp. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presento Focus Economia. Allora, adesso iniziamo a rispondere alle telefonate e ai messaggi. Allora, i messaggi che sto leggendo ce ne sono tantissimi su WhatsApp. Cito uno: mia madre ha 90 anni, ha comprato, vabbè, in questo caso è Veneto Banca, azioni, persi 40.000 euro, ha firmato un profilo dinamico, io credo a rischio, senza sapere cosa comportasse. E poi scrivono tanti altri ascoltatori: vorrei iniziare a prendere Biagio dalla provincia di Cuneo e Walter da Milano. Biagio, buonasera. Biagio? Sì. Buonasera. Sì, buonasera, Barisoli. Le volevo dire, non ha detto la cosa. Prego, prego. Il mio amico praticamente lì ad Arezzo, cioè praticamente ci ha rimesso tutto il capitale e giustamente dice, io non è che me ne intende tanto, però quando io sono 20 anni che ho rapporti con una banca e mi dico che il capitale è garantito, al massimo posso pensare che ci rimetto magari qualcosa sugli interessi, ecco. Quindi voglio dire, la gente si fida delle banche. Il suo amico che si chiamava Biagio? No. Vabbè, no. Quale banca ha sottoscritto? Banca Etruria lì ad Arezzo, e quindi automaticamente capisce che poi voglio dire, persone vorrebbero anche vedere che comunque qualche testina saltasse, anche perché lei ha dato nomi, cognomi, però vediamo che adesso li ridò i nomi, cognomi, no, almeno gli riveniamo la vita privata, nel senso legale del termine, ci mancherebbe, cambiano città di provincia. Grazie Biagio. Walter da Milano, buonasera. Pronto, buonasera. Mi scusi. Prego. Mi scusi, devo chiedere una cosa. Pronto? Sì, la sento bene. Sì, sono un pensionato, ho delle obbligazioni in banca. Sì. Tre domande da fare al mio operatore finanziario per sapere se le mie obbligazioni sono a rischio. Ok, questa mi sembra che possa riassumere. Grazie molto anche per la sintesi. mi sembra che possa riassumere una buona parte di quello che andremo a dire dopo. Ti chiedo ancora un po' di pazienza, sì, figurati, perché da un lato che cosa, insomma, i filoni sono chiaramente due: che cosa fare in chi ha sottoscritto azioni, la vedo dura, obbligazioni strutturate, subordinate, scusatemi, di queste banche, e poi cosa fare se vuoi sottoscrivere delle obbligazioni o se hai obbligazioni strutturate subordinate di altre banche, che cosa devi andare a chiedere. Le altre domande le prendiamo dopo. GR24 Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Vuoi partecipare a una serata esclusiva in compagnia dei maestri del doppiaggio? Fino al 14 dicembre lascia il tuo provino alla voice box di Voice Anatomy al numero 828 1212. Se la tua voce sarà all'altezza dei più grandi, potrai essere tra i tre fortunati a partecipare come pubblico al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio in programma a Roma giovedì 17 dicembre. E quindi, voce! Info su radio24.it. State ascoltando un programma offerto da Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Focus Economia. Banca Marche, Massimo Bianconi, ex direttore generale, Michele Ambrosini, Lauro Costa, ex presidenti, Piero Valentini, ex presidente del collegio sindacale. Banca Popolare dell'Etruria, Giuseppe Fornasari, presidente fino all'aprile 2014, Luca Bronchi, direttore generale fino all'estate 2014, Davide Canestri, direttore centrale responsabile del risk management. Cassa di risparmio di Ferrara, il direttore generale si chiamava Murolo, sul nome di battesimo adesso Gennaro Murolo, e l'ex presidente si chiama Alfredo Santini, gli ex presidenti Alfredo Santini e Sergio Lenzi. Cassa di risparmio di Chieti, l'ex direttore generale Francesco Di Tizio e Roberto Sbrolli, gli ex presidenti della banca Tito Codagnone e Mario Falconio. Questo per dare intanto le responsabilità del dissesto di queste quattro banche. Ok, poi adesso diamo le risposte agli ascoltatori che stanno chiamando all'800 24 0024, ripeto, oggi puntata speciale dedicata da un lato a spiegare che cosa è successo, ma a evitare, ripeto, che parta il panico in un sistema bancario che in Europa è quello che più si finanzia con le obbligazioni bancarie. Non voglio tornare sul tema del governo, della Banca d'Italia, di Bruxelles, vi arriveremo fra un attimo, vorrei sentire invece Andrea da Milano, grazie, poi Pier Filippo da Monza e Sergio da Viterbo. Andrea, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Io sono un operatore e ho un po' di difficoltà per capire alcuni meccanismi relativi al bail-in. In caso di fallimento e prelievo forzoso sui conti correnti, fatta salva la franchigia dei 100.000 euro, verrebbero anche intaccati e prelevati i denari che sono sul conto titoli, anche strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni e dalle azioni bancarie, quindi non so, in fondi in altri strumenti chiarissima la domanda. Quindi lei dice, posso provare anche a semplificare ulteriormente, dei 100.000 euro tutelati entrano in questi 100.000 euro oltre che le obbligazioni e le azioni anche eventuali fondi o sono un conto a parte? Perché sappiamo che dal 1 gennaio col bail-in sopra i 100.000 euro non sei più tutelato in caso di fallimento bancario, che fa il paio con la domanda dell'ascoltatore di prima: quando vado in banca che cosa devo farmi spiegare sul tipo di obbligazioni bancarie? E poi arriviamo anche alla risposta sulla Popolare dell'Etruria, come fare a dimostrare quello che chiedeva Biagio, che mi hanno fatto comprare, sottoscrivere senza spiegarmi il rischio. Vorrei sentire ancora Pier Filippo da Monza, Pierfilippo, buonasera. Buonasera. Senta, premesso, io non ho problemi col fallimento di queste quattro banche, ma li ho avuti ai tempi con l'Argentina e anche con Cirio. Però mi preoccupa l'intervento sia di Banca Intesa, di cui sono correntista, e Unicredit, di cui sono azionista, perché qui ho l'impressione che per salvare queste quattro banche e chi ha commesso tanti errori, il rischio è che anche altri istituti sicuramente non ne hanno dei benefici. Vediamo come stanno andando in questo periodo le quotazioni di Unicredit. Ecco, questa sì, qui è però stiamo parlando delle quotazioni azionarie di una banca che si muovono oggi, per esempio, così do anche un aggiornamento di borsa. Anima Holding ha perso il 6%, e qui c'è un tema, una pressione fortissima su chi gestisce il risparmio. Popolare Emilia Romagna al 3,80%, Monte dei Paschi meno 3,5%, Unipol meno 2,60%, Unipol 6 meno 3,40%, e poi ancora sui titoli bancari, visto che ne parliamo, Intesa San Paolo meno 1,5%. Ovviamente non riesco a trovare Unicredit perché è l'unica banca con cui vorrei rispondere, ma adesso vi arriverò. Sto guardando altri titoli bancari, Mediobanca ha perso il 2,15%, ma eccola qua, meno 0,88% Unicredit. È un po' diverso il caso, le banche si muovono su tante notizie. Io vorrei concentrare, se possibile, le domande su, diciamo, cosa fare, cosa chiedere in banca e cosa fare con le obbligazioni bancarie. Grazie Pierfilippo. Comunque, Sergio da Viterbo, buonasera. Sì, buonasera, io sono un operatore bancario, per cui volevo portare la mia testimonianza riguardo alla giornata, ad esempio, odierna, nella quale ho avuto la visita di numerosi clienti, i quali, sentendo la televisione, hanno interpretato come il possesso di un'obbligazione, a prescindere da ordinaria o subordinata, che spesso neanche, diciamo, riuscivano a capire la differenza fra i due tipi, come se oramai i loro soldi fossero persi, a rischio, domattina se li disinvesto non prendo più niente, quando invece nel momento in cui la banca presso la quale si è fatto questo investimento di natura obbligazionaria, se ha una solidità ben certificata, vedi il Common Equity Tier 1, diciamo che sta sopra, diciamo, le soglie di assoluta tranquillità, di fatto è un titolo che comunque rimane a rischio considerando l'andamento di un'azienda come è la banca, ma non certo domani mattina, certo. Chi è cliente di una banca con coefficienti patrimoniali buoni, non dico ottimi ma buoni, chiaramente il suo risparmio ancora al momento è ancora tutelato, per cui direi che venisse, diciamo, fatto presente da parte vostra, dagli operatori anche di radio e televisione, che avere obbligazioni di una banca in Italia non necessariamente vuol dire avere i propri soldi. No, ma guardi, sono d'accordissimo con lei, l'obiettivo è questo, nel senso che ho detto all'inizio del programma che se qua iniziamo a far prevalere il panico per cui si pensa che ogni obbligazione bancaria è a rischio, attenzione, vuol dire ragionare come se il sistema bancario italiano fosse a rischio. Ripeto, se dobbiamo ipotizzare che le principali banche italiane siano a rischio, dobbiamo ipotizzare che il paese sia a rischio, non ci voglio neanche pensare, nel senso che queste banche non hanno solo le obbligazioni bancarie, hanno anche i titoli di Stato, ecco perché bisogna saper distinguere anche tra le piccole e poi tra piccole e grandi, come dice lei, tra il coefficiente patrimoniale, qual è il voto dato a questa banca, perché sennò si fa solo confusione. Diciamo che una mano a far confusione ce l'ha data la gestione pressapochista, approssimativa e così da dilettanti allo sbaraglio a cui abbiamo assistito, e adesso il rimpallo delle responsabilità tra governo, Banca d'Italia, Bruxelles. Allora andiamo, però iniziamo a rispondere, allora, Vitaliano, prima domanda, con ordine andiamo. Vai. Viaggio da Cuneo, capitale garantito, in finanza non ci sono pasti gratis, niente è garantito, qualunque cosa ha un rischio che può essere un minimo, può essere massimo, non esistono più free risk, cioè strumenti free risk, non esistono più, perché come abbiamo visto anche gli stati, vedi Argentina, falliscono. Questa è la prima cosa da sapere. Walter da Milano chiede cosa fare per capire se ci sono rischi, se le sue obbligazioni. Deve andare in banca, farsi rifare il profilo di rischio MiFID, rispondere a questo questionario in modo chiaro e dicendo tutto. In questo modo emergerà se lui è un risparmiatore conservativo, aggressivo, e in base a questo poi gli diranno queste obbligazioni te le puoi tenere, le puoi vendere, fare altro. poi. Sì, faccio notare che noi domani su Sole 24 Ore chiediamo anche alla MIFID che si capisca. Io ce l'ho sotto mano, la MIFID non si capisce una mazza, sono 130 pagine, voglio dire, ma di cosa stiamo parlando? No, comunque... però c'è il questionario, poi tutta questa MIFID che è uscita nel 2008 è stata declinata in questionari molto semplici. Vabbè, comunque che andate le banche, in banca e fatevi rifare il profilo. Il profilo. Le domande più banali: cosa vuoi fare tra 3 anni con questi soldi? Che perdite puoi sopportare? Questo, quando parliamo di rischio, traduciamo: che perdite tu, caro risparmiatore, sei disposto a sopportare? Certo. In base a questa domanda... Fatevi rifare il profilo di rischio in banca. Ok. Andrea... No, c'è anche la domanda di chi dice, attenzione, ma io che le ho comprate, mia madre che ha 90 anni, l'hanno definita dinamica. Questa è una stupidata, perché cioè, peraltro, come vendere una polizza vita a un anziano, cioè non, come fa a essere dinamica una persona di 90 anni? Poi dipende anche dalla sua... Dinamica nel risparmio, nel risparmio, no. Poi dipende comunque... Sì, ma cosa può fare il risparmiatore se ha firmato la MIFID? Deve tornare in banca e cambiare il suo profilo. Cambiare, farsi cambiare il suo profilo. E se queste però, e se queste azioni, o meglio obbligazioni, erano della Popolare Etruria, in questo caso... Allora, questo è un altro discorso. Passiamo in un ambito legale, no? Quindi poi, a parte adesso il fondo di solidarietà, c'è un discorso legale. E sì, tu sai però che c'è chi dice che sarà molto difficile dimostrare di essere stati raggirati nel momento in cui tu hai firmato la MIFID. Certo, però poi a quel punto uno deve anche dimostrare la propria competenza o meno. Cioè, se uno c'ha una terza media e fa l'operaio, non so quanto possa capire se è un bond o meno. Però se ha firmato la MIFID non scagiona... La MIFID, uno può anche aver firmato una cosa in modo con un raggiro. Quindi, insomma, a quel punto... Sì, non caso esistendo per caso, la class action, come faceva notare Zingale ieri, questo paese è tutto un po' più difficile. Caso comunque... per caso. Allora, andiamo avanti. Andrea, che era anche molto più tecnica la domanda... conto titoli è dentro i 100.000, allora fermo restando appunto c'è questa franchigia dei 100.000, i conto titoli è fuori escluso dal bail-in, cioè il conto titoli non è altro che una specie di scatola dove vengono inseriti i fondi, le azioni, le obbligazioni. Ebbene, questo conto titoli è escluso dal quindi bail-in. Chiariamo questo: dal 1 gennaio il bail-in prevede che non solo gli azionisti in caso di fallimento di una banca, certo, ma anche gli obbligazionisti subordinati. Subordinati, gli obbligazionisti senior e i correntisti oltre i 100.000 euro. Le domande più frequenti che noi riceviamo è: ma i 100.000 euro si calcolano in tutti i depositi che hai o allora, solo in quella banca? No, te le dico, sì. In tutti i depositi che hai o solo in quella banca? Cioè, se io metto 100 in una banca, 100 in un'altra, valgono sempre i 100... Prima domanda. Seconda domanda: dentro questi 100.000 euro considerate anche l'investimento azionario o obbligazionario? Quindi vai. Allora, 100.000 per banca. Per banca. Ovviamente con gruppi, cioè banche diverse, no? Certo. Non filiali della stessa quindi, banca. Quindi voglio dire, banche se uno diverse. Vuole proteggere, diciamola tutta, se uno ha 300.000 euro in una banca sola, in questo momento gli conviene col bail-in, per stare tranquillo e metterli su altre due banche. Ad oggi è così. Bisogna vedere poi, oggi, stamattina avevamo il forum dei gestori, sono emerse delle cose sui codici fiscali, per adesso non voglio complicare. Comunque, ad oggi diversificare in più banche. Azioni, obbligazioni, fondi sono esclusi, in quanto nel conto titoli sono esclusi dal bail-in. Certo, se poi in quel conto titoli c'è l'obbligazione Etruria, è in default in questo momento. Okay. Però sono esclusi, diciamo, dal... Sono esclusi dal bail-in. Poi c'è anche il discorso della contitolarità, no? Se marito e moglie hanno cointestato 100.000 a testa. Quindi... Per cui possono avere fino a 200.000 euro cointestati. Ok, però non devono avere altri conti in quella banca. Certo. Okay. Vale per tutto, cioè tutti i conti che hai in quella banca sono tutelati fino a 100.000 euro? No, allora in quella banca, se io con mia moglie ho 100.000 io, 50.000 mia moglie, ho 150.000, no? Quindi c'è un tetto fino a 200.000, però se ho un altro conto in cui sono sopra 100.000 io sarò tutelato fino a massimo di 200.000. Sì, chiaro, cioè è 100.000 a persona in quella banca, al di là di quanti conti correnti tu abbia lì dentro, cioè, quindi i due, marito e moglie, possono arrivare fino a 200.000, fino a 200.000. In tutto. Ok. Poi, il signore di Monza parlava di banche... ecco, queste quattro banche non sono banche quotate. Quando parliamo di Unicredit... Popolare Etruria... Era quotata, poi l'hanno... Sì, era quotata, però poi l'hanno sospesa. Però non bisogna generalizzare. Comunque, noi domani anche su Plus, oltre sul Sole, il manifesto del risparmio, su Plus abbiamo la tabella del CET1, no? Di cui ti parlava l'operatore, in cui indichiamo le percentuali, questo criterio di solidità, perché questo è importante. Dal 1 gennaio, quando si va a investire in un'obbligazione bancaria, ma anche banalmente a mettere il conto, bisogna informarsi su questi criteri di solidarietà. E il CET1, solidità. Cioè solidità. E noi indichiamo appunto una serie di percentuali, e più o meno insomma le banche sono abbastanza solide in Italia, cioè non bisogna avere paura da questo punto di vista. Infatti non vorrei che il risparmiatore italiano prima non avesse letto la MiFID, e c'è una colpa anche del risparmiatore, il risparmiatore deve informarsi, e adesso invece scatta o dovesse scattare con l'effetto del pendolo la reazione opposta: non mi fido di nessuna banca. Abbiate un po' di pazienza, un po' più di maturità. Resta con noi ancora al traffico. Stufe, caldaie, termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Focus Economia. Allora, ancora una domanda che sta arrivando sugli investimenti. I libretti postali vengono considerati nei 100.000 euro oppure no, Vitaliano? Allora, no, tutto quello che è dentro il conto titoli è escluso. Quello che è sul conto fino a 100.000 euro, oltre 100.000 euro, sì. Allora, vorrei intanto collegarmi rapidamente, perché ho pochissimi minuti, con Adriana Ceretelli, poi la riavremo ospite, editorialista Sole 24 Ore, proprio sui temi europei e in collegamento da Bruxelles. Buonasera Adriana. Buonasera. Aiutaci a capire una cosa, poi ti riavremo ospite lunedì. Ma veramente la tensione, come leggiamo, tra Bruxelles e Roma, tra Bruxelles e Banca d'Italia, è arrivata a livello più alto da quando, diciamo, raccontiamo, oppure è un'esagerazione? No, diciamo che i rapporti sono abbastanza tesi, perché la sensazione a Bruxelles è che, diciamo, dietro le quinte si tenti un po' di fa quel se si vuole. Ecco, l'Italia, per esempio, anche lasciamo stare la questione banche, dove naturalmente ha torto ragione, comunque Bruxelles aveva una posizione e noi stiamo cercando naturalmente di, nelle pieghe, nelle more delle regole, di fare un po' quello che riteniamo più opportuno. Poi se prendiamo il fatto della flessibilità di bilancio, anche lì diciamo ci stiamo muovendo senza attendere la famosa primavera, quando loro daranno il giudizio. Quindi tutte queste cose non sono gradite, perché però regole eccetera. Però il paradosso è che l'Italia sia l'unico paese che non ha salvato le banche, uno dei pochi. La Germania ci ha messo 240 miliardi, l'Austria 22, sì, certo. la Spagna 50, l'Olanda 30. È l'unico paese in cui i risparmiatori e gli obbligazionisti di queste banche pagano le conseguenze. Non è strano? Cioè... Ma è strano fino a un certo punto, nel senso che noi, nel momento in cui c'era un certo codice degli aiuti di Stato estremamente lassista, non abbiamo avuto bisogno di usarlo e abbiamo fatto naturalmente benissimo. Quando poi però sono state stabilite le regole del bail-in, cioè del coinvolgimento dei risparmiatori tra gli altri nel fallimento delle banche o comunque nei processi di ristrutturazione, secondo me forse, come purtroppo tante volte, non siamo stati abbastanza attenti nei negoziati sulle regole, per cui ci siamo ritrovati a non aver usato gli aiuti di Stato quando non, giustamente non ne avevamo bisogno, ma a non poterli usare oggi perché abbiamo insomma avallato delle regole che con una maggiore attenzione magari avremmo potuto rendere un pochino più flessibili e qui c'è un sempre, pochino più adatte e qui c'è sempre il tema della competenza, della politica, di chi sta a Bruxelles e quant'altro. Vorrei, Adriana, io ti riavrò ospite perché questa vicenda, adesso vediamo stasera che cosa dirà il ministro dell'economia Padoan. L'Europa ha già detto oggi che un fondo ristoro non si può fare perché sono aiuti di Stato. Vedremo se arriverà un arbitraggio, come alcuni dicono, o l'idea di arrivare dagli arbitrati e non utilizzare soldi pubblici, perché sennò l'Unione Europea dice che è aiuto di Stato ai risparmiatori, a questi risparmiatori. E ti riavremo ospite. Grazie intanto per questo flash. Così come riavremo ospite, devo chiedere scusa a varie persone, ma insomma era importante rispondere anche alle domande degli ascoltatori, riavremo ospite lunedì anche Mario Seminerio, che è economista e poi ha questo sito di informazione economico-finanziaria, molto amico di Oscar Giannina, che si chiama fastidio.net. Buonasera Seminerio. Buonasera. Buonasera. Mi dia anche lei la sua versione, perché qua adesso noi concludere, ripartiamo da dove avevamo iniziato. Noi cerchiamo di tranquillizzare, lo sta facendo benissimo Vitaliano, far capire che non ha senso adesso il panico, non ha senso la coda allo sportello, quello che ci stanno scrivendo molti direttori di filiale. Distingue tra banche e banche, tra patrimoni e solidità, il sistema bancario italiano non è a rischio, altrimenti dovremmo dire che è a rischio l'intero paese, lo spread non è un problema, quindi tranquilli. Però lei che idea si è fatto? Perché qua stiamo invece assistendo al balletto, allo scaricabarile delle responsabilità, il triangolo è Bruxelles, Banca d'Italia e governo. Io dico molto rapidamente, perché appunto abbiamo poco tempo, è vero, un balletto di scaricabarile che è piuttosto indecente sull'interno. Non dimentichiamo che le quattro banche erano commissariate da almeno 2 anni e mezzo, durante i quali non si è trovato modo di risolvere la questione. In un continuo rimpallo arriva una cordata di imprenditori, fantasma, stampa locale ricchissima come buca delle lettere, come al solito, di questi messaggi. È trascorso il tempo, arriviamo sempre a ridosso della mezzanotte e poi succede quello che deve succedere. Questo è l'ennesimo nodo che arriva al pettine di un sistema paese zoppicante. Poi, se mi consente, una cosa molto rapida. Io non sono esattamente d'accordo sul concetto che sento dire da moltissime persone: ah, ma la Germania ha usato un sacco di soldi di aiuti di Stato. Sì, però bisogna considerare una cosa: qual era l'alternativa per l'Italia? Fare esplodere il proprio debito pubblico salvando queste banche, che fino ad ora avevano occultato il loro reale stato di salute? E questi problemi sono emersi non in conseguenza della crisi, del punto di minimo della crisi, ma durante una ripresa, e chissà come mai, quando l'Unione Europea ha forzato la mano ai singoli paesi a dire la verità sulle proprie banche. Per cui noi qua ci siamo addormentati, credendo che tutto sarebbe finito a tarallucci e vino, come sempre e quasi tutto si crede finisca in questo paese, e adesso la realtà ci sta presentando il conto. E non dimentichiamo un altro punto. Ricordiamoci, nel 2011-2012, quanti soldi, lo dico io, il 5% del PIL italiano, lo Stato italiano ha dato di garanzia alle banche per emettere dei bond garantiti dallo Stato, resi stanziabili per avere finanziamenti di liquidità dalla Banca Centrale Europea, il 5,3% del prodotto interno lordo italiano. Per cui mi spiace essere bastian contrario, cosa che mi accade spesso, ma questo è un paese che ha enormi problemi strutturali, ma un'ancora più grande capacità di autoingannarsi. Finché non risolviamo quella, non ne usciamo. Allora, torniamo sul tema anche lunedì. Intanto grazie anche a lei, grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno come sempre per l'assistenza in redazione. Da Sebastiano Barigioni comunque l'auguro di una buona di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Radio 24, la passione si sente.